e non potevamo perdere questa ripresa con ITC Teatro, regia di Nicola Bonazzi, il protagonista, amico di Radio Città Fujiko, Andrea Santo Anastaso, è in mezzo al traffico, ma non ci credo tanto, lo sento talmente bene. Buongiorno Andrea, che piacere sentirti. No, perché come tutti i bravi autisti mi sono fermato in un angolino. Grazie. No, vicino alla Certosa, per darti un riferimento anche fisico, così anche chi ti ascolta sa dove sono. Vicino alla Certosa di Bologna, in questo momento, dove c'è quella rotonda che porta allo stadio, che ci sono quelli che giocano a calcio, hai presente? Perché mio figlio quella rotonda lì la ama particolarmente. Si parlava di giovani, infatti, fino a poc'anzi. Intanto grazie della partecipazione, è un piacere risentirti. Si comincia allora, Andrea, è stato fermato purtroppo. Sì, sembra, cioè, nel senso, il debutto di questo spettacolo era fissato il 9 novembre del 2020. Debuttiamo invece il 6 ottobre 2021. Secondo me in queste due date c'è la chiave di quello che abbiamo passato e che stiamo ancora passando, perché ancora debuttiamo con un teatro al 50% della capienza, quindi facendo un po' fatica, però queste sono cose brutte. Le cose belle invece sono che debuttiamo con uno spettacolo su qualcuno che il mondo lo ha sempre cercato, nonostante abbia passato veramente le cose, quelle che nei romanzi sembrano assurde, le abbia passate di tutte, lui l'ha sempre vissuto col sorriso, o meglio, sempre pensando che bisogna pensare positivo, al bene, al futuro, guardare avanti, gioire, godere, lui così diceva, il buon Sandro Pertini. Sì, infatti appena citiamo il semplice titolo Sandro subito viene in mente il presidente. Un collega, compagno d'avventura del Mood Groove, ha portato questa definizione underdog, che vuol dire un sottovalutato che però ti svolta. Sandro Pertini un po' è stato l'underdog per eccellenza negli anni Ottanta, no? Chi avrebbe mai pensato a un presidente con queste origini e con queste particolarità di percorso? È stato inizialmente il sottovalutato che poi non ti aspetti, arriva e svolta il match? Sì, è proprio così, nel senso che come Presidente della Repubblica quantomeno, in realtà chi lo conosceva o chi sapeva della vicenda umana e anche partigiana e il resto della sua vita, sapeva perfettamente che sarebbe stato un grande, forse nessuno si aspettava che sarebbe stato quel presidente che avrebbe rappresentato quello per un paese anni 70-80, è quello che cerchiamo di raccontare noi con questo spettacolo, un paese veramente che ha vissuto veramente anni tremendi, noi non lo definiamo a caso quello degli anni 70 e inizio anni 80 un decennio di sangue, non a caso lo definiamo con questo termine, perché veramente il nostro paese era bagnato di sangue e insomma le vicende erano tremende, e lui arrivò così un po' in sordina, ripeto, per chi non lo conosceva veramente, ma credo che lo scelsero invece per questo, e poi tirò fuori dopo quello che era lui, cioè un uomo che ha, un partigiano che si è fatto anni e anni e anni di galera, quella vera, nello spettacolo. Io per raccontare, quando ne parlo con mio figlio, ripeto, che ha 11 anni, a lui spiego le cose, perché lui è la chiave per capire se sono chiaro, di Pertini gli racconto che quando andò in carcere, nella carcere di Santo Stefano, dove è stato per tantissimi anni, gli si atrofizzarono le corde vocali, perché non poteva parlare con nessuno, per farti capire quanto carcere faticoso e duro ha fatto questo signore qua. Uno così cosa può fare quando diventa il presidente degli italiani? Sai come si definiva lui? Il primo impiegato italiano. È già un esempio assolutamente importante anche per, come abbiamo detto in precedenza, le giovani generazioni. A tale proposito ti presento Amalia, che è qui con me, che è molto lieta di conoscerti. Sì, molto piacere. Ciao, Andrea, buongiorno. Ciao. Buongiorno, piacere, molto piacere. Come si può raccontare la figura di Sandro Pertini? Cioè, come procede questa narrazione? Guarda, procede facendo un paragone con quello che siamo noi oggi, perché noi ci siamo inventati tre personaggi che intervengono ogni tanto, li interpreto sempre io, nell'ambito dello spettacolo, che abbiamo definito odiatori, tra virgolette, ma che in realtà, purtroppo, guarda, lo dico, siamo molti di noi, se non per tutta la giornata e in parti della giornata, e alternare i piccoli monologhi degli odiatori che sono stati scritti da Cristian Poli e Nicola Bonassi insieme, e con la vita di Pertini, fa effetto, perché ci sentiamo noi bisognosi di quell'esempio ancora adesso, di quell'esempio illustre che è stato Sandro Pertini. Tu vieni dal percorso precedente dedicato ad Andrea Pazienza, che ha scatenato in me una positiva invidia oltre che un'ammirazione, che già è tanta da prima, figuriamoci dopo quello spettacolo che ho trovato stupendo. Mi chiamo Andrea e faccio fumetti. Grazie. Grazie a te. Vi è quella linea anche in Sandro, diciamo così, sottesa nel rappresentare tutto ciò, una linea che dà continuità magari a una serie di questi personaggi? Sì, la volontà è quella di raccontare in tre spettacoli, questo è il percorso che ci siamo dati Nicola Bonassi, Cristian Poli ed io. Ci siamo detti, facciamo, di solito si ragiona così in termini di trilogia, tre numero perfetto, ci siamo detti facciamo una trilogia che racconti di quegli anni lì, cioè di quegli anni appunto complicati per il nostro paese, e abbiamo cercato delle figure che potessero raccontarli. Siamo partiti da Paz perché rappresentava qualcosa di particolare anche per la mia vita personale, se vi è capitato di vedere lo spettacolo, chi è capitato di vedere lo sa, a chi non dovesse capitare, tanto il 6 novembre ci risentiamo perché sono di nuovo a farlo a Bologna, quindi comunque vi romperò di nuovo l'anima per invitarvi. Un piacere. Quella è una parte del tripercorso, poi la seconda è quella di Pertini, adesso poi in futuro ne prepareremo una terza. La volontà è quella, è raccontare veramente gli anni che poi sono quelli, io sono del 67, quindi in quegli anni lì... Sei un ragazzone. in quegli anni lì ho vissuto, insomma, l'ho vissuto veramente questo paese, ci piace l'idea di raccontare quello che abbiamo passato e come ne siamo usciti. Pertini è una chiave, non a caso nelle tavole di Pazienza c'era Pertini, uno dei suoi personaggi a fumetti era Pert. Quindi, come vedi, il legame è diretto, lo dico anche durante lo spettacolo. Infatti volevo appunto arrivare anche a questo aspetto tecnico ed emotivo allo stesso tempo, era uno dei personaggi di Pazienza, fra l'altro. Sì. In questo caso. Il collegare le generazioni è quanto mai esplicito. Ecco, io volevo chiedere, perché ormai ho voglia di vedere questo spettacolo dopo averne sentito parlare, quando debutterà e dove debutterà? Allora, noi saremo il 6, cioè mercoledì 6 ottobre, all'ITC Teatro di San Lazzaro di Savena, e ci rimarremo fino al 17 di ottobre, quindi per due settimane, quindi le sere sono tante, il teatro ha una capienza ridotta, ma in realtà chiamando il teatro, prenotando, insomma, si trova a posto tranquillamente, e perché le serate sono tante, e tanti giorni per poterlo raccontare bene. Poi cominceremo subito a girare, perché probabilmente poi ci sposteremo un pochino in Romagna. La volontà e l'intenzione è quella di fare, siccome io appunto, come diceva William prima, ho una certa età, sono inesauribile, mi piacerebbe arrivare in qualche posto e raccontare Pertini alla sera agli adulti e alla mattina a scuola, perché secondo me Pertini andrebbe raccontato a scuola, ma veramente, cioè altro che tante cose, forse più utile delle mascherine, un'ora passata in compagnia di Pertini. Penso per anch'io, la salute dei ragazzi. Penso anch'io, per un certo tipo di salute, penso anch'io, che è fondamentale. Sei chiamato agli straordinari, quindi non ti manca certamente né l'entusiasmo, né il talento, né l'energia. Saremo ben contenti di seguire questi percorsi. Sono andato un po' fuori programma, ma non troppo. Come ho detto, la giornata dedicata al teatro è il venerdì, ma non potevo perdere questa anticipazione, in seguito anche a Mi chiamo Andrea e faccio fumetti, ITC Teatro con Radio Città Fujiko. Venerdì riprenderemo anche lo spettacolo Sandro, che ha portato continuità a questi contenuti grazie ad Andrea Santonastaso. Ok, ti puoi muovere, togli le quattro frecce e prosegui. Grazie com'è entrambi, grazie ragazzi. Com'è grazie, la situazione traffico, Andrea? Ah no, guarda, basta prenderla quei 20 minuti prima e non c'è nessuno. Tra 20 minuti sarà tremenda. Adesso si gira ancora. Bravo, per adesso. Bravo. Mattinieri sempre. Agire d'anticipo. Grazie. Ciao a tutti. Grazie, ragazzi. Ciao Andrea, buona giornata. Ciao.